Ma raccontateci infatti subito come vi siete conosciuti e come collaborate tra di voi. Allora, guarda, questa domanda ti risponde il mitico Terrible, okay. Te lo passo subito. Fantastico. Vai, digli come ci siamo conosciuti, bro. Bella Radio Fujiko. Ciao. Ciao. Grandi. Allora, adesso vi racconto un attimo come ho conosciuto questo pazzo. Diciamo che è un po' la storia, l'amico dell'amico dell'amico che te lo presenta. Sono nate delle bellissime collaborazioni da subito. Mm-hmm. Ci siamo subito presi con Paride, un grande musicista e un grande producer. Ha saputo subito cogliere il Terrible, diciamo, dai. Oh, ok, fantastico. E parlaci anche un po' del tuo brano Cose da Grandi, che è uscito il 7 marzo. Allora, questo Terrible, Cose da Grandi, un brano abbastanza personale. L'abbiamo fatto quanto tempo fa ormai? 5-6 mesi fa, e diciamo che è la traccia, forse la punta di diamante delle tracce che ho concluso con Paride fino adesso. Okay. Quella che mi piace di più, quella che mi può rappresentare di più. Ok, sì, abbiamo notato che c'è un cambio totale di prospettiva, perché appunto in Terrible c'è, diciamo, più autoironia, più leggerezza, mentre invece questa è già una traccia più introspettiva. Ma come nascono? È già una traccia un po' più consci, diciamo, dai. Esatto. Ma cosa c'è alla base di un singolo, insomma, come nasce di solito? Come ti capita di scrivere e di comporre? Ma solitamente, guarda, ci troviamo qua in studio da Paride, uh-huh. E le cose tra... non so se si può dire in radio. Vabbè, sì, tra... Vabbè, abbiamo capito. Ok. E tra una cosa e un'altra, diciamo che ok, c'è un processo creativo comune, mettiamola così. Vi trovate in studio, fate le vostre cose. Condiviso. Ok. Senti un po', ma Parix, quali sono le vostre principali ispirazioni? Le tue, perché insomma sappiamo che sei un producer super bravo, sei stato anche nel tour insieme a Sfera Ebbasta. Raccontaci un po'. Allora vi passo. Dicevamo, raccontaci un po' della tua storia di producer. Sappiamo che sei stato anche in tour con Sfera. E dici un po', sì, come nascono le tue produzioni, a cosa ti ispiri? Ma allora, diciamo che io ho iniziato tutto come musicista, perché da quando ero piccolo ho iniziato suonando il pianoforte, avevo solo 5-6 anni. Poi mi ricordo che volevo suonare la chitarra, ma avevo le mani piccole, scleravo perché non riuscivo a fare gli accordi, no. Avevo solo 7-8 anni. E, okay. Dopodiché ho iniziato suonando in varie band come tutti i musicisti. Mm-hmm. Poi dopo sono diventato producer nel momento in cui ti rendi conto che in una band c'è il batterista che vuol sempre fare quello che pare a lui, il bassista che vuol fare il virtuoso, l'altro chitarrista che non arriva alle prove, mm-hmm. Questo non può venire, l'altro domani è impegnato, c'è la fidanzata. Allora a un certo punto ho deciso di fare il producer più che altro per necessità, per i miei stessi brani, perché volevo avere delle basi sulle quali cantare senza dover avere bisogno degli altri e del loro tempo libero, insomma. In autonomia, quindi. Tutto è nato esatto, per necessità, in questo modo. Dopodiché ovviamente c'è stata una lunga escalation, perché cioè, il mondo delle produzioni è una cosa molto vasta, mm-hmm. e bisogna avere molte conoscenze a seconda dei generi che si vuole fare. Io piano piano ho imparato a usare, diciamo, il computer più che altro, perché prima, nascendo come musicista, si può suonare gli strumenti, ma ho dovuto imparare anche tutto il lato proprio di producer con i programmi, il computer. Okay. Ma Parix, dici bene che il mondo delle produzioni immagino sia veramente un mondo fatto più che altro di contatti, no? Tra le tante persone magari con cui sei entrato in contatto, con chi vorresti collaborare prossimamente? Ma questa è una domandona, perché io diciamo che me la potevi fare tipo un po' di anni fa, perché adesso ormai i miei miti ce li ho, cioè la grande soddisfazione della mia vita è stata proprio questa, che quasi tutti i miei miti del rap mi hanno chiamato di loro spontanea volontà durante questi anni. Ti hanno contattato. Marrakesh, che era... Esatto, Marrakesh, che era uno dei miei idoli, cioè una notte alle 4 di mattina su Twitter mi dice: sto ascoltando i tuoi brani, bro. E no, fantastico. Spaccolo, non ti fermare mai. Fantastico, bello. E niente, molto. Mi ricordo che dopo circa neanche un anno ero in studio con Marra a suonare le chitarre e il pianoforte sull'album status. Mm-hmm. Dopodiché, dopo poco, poi è partito il tour di quell'album e Marra mi ha chiesto di andare con lui, e grande soddisfazione. Poi comunque un'altra grande soddisfazione, un altro mito, pietra miliare che ho collezionato nelle produzioni, è Noi Zuna, cosa cui ho prodotto Enemy. Bomba, che è uscito da poco, il suo ultimo disco. Uh-huh. E quindi niente, dai, diciamo che per adesso sei a posto. Contento. Se ci penso alla veloce non so dire artistico, cioè magari artisti italiani, ecco, se dovessi dirti qualche artista, di dire artista internazionale, mi piacerebbe produrre un pezzo Chris Brown oppure suonare la chitarra in un brano dei Muse. Bomba, bomba. Ma guarda, io credo che possiamo aspettarci di tutto da te. Tra qualche tempo magari ci saprai dire di averlo già fatto. Ma andiamo avanti. Io volevo sapere cosa pensate di tutti questi nomi anche che mi hai detto, ma soprattutto in generale, quindi di questo mondo rap. Della scena rap, trap in generale. Cosa ne pensate? Ma allora, io personalmente ti posso dire la mia, che la scena rap o trap, o insomma musicale in generale, è come un supermercato. Quando tu entri ci sono tante cose che ti piacciono, ci sono tante cose che non ti piacciono. Uh-huh. E secondo me sta nella tua intelligenza, anche per non stressarti le orecchie, il cervello e tutto, cercare di selezionare, perché insomma puoi beccare cose di tutto. Cose brutte, esatto, di tutto. Adesso è un momento in cui la qualità della musica, secondo me, sta da un lato calando, ma da un altro lato c'è sempre chi la mantiene. Mm-hmm. Quindi insomma bisogna vedere dove focalizzarsi. E inoltre volevamo chiedere sia a te che a Terrible di consigliarci due brani, uno tu e uno lui, due canzoni da mandare in radio in una delle nostre puntate prossimamente. Ok, allora Terrible, consigliami una canzone, ti passo Terrible. Vai. Allora ragazzi, vabbè, mi sembra abbastanza scontato, direi che vi consiglio questa canzone di questo artista di cui sono molto molto fan, che si chiama Terrible e la canzone è Terrible. Va bene. Quindi ragazzi, andatevelo ad ascoltare. Terrible One Love Bologna, Hilton Hand, sempre perfetto. In movimento.